Allora, cominciamo. Va bene, io sono Gubinguno, lui è Leonardo Bianchi, l'autore del libro La gente, viaggio nell'Italia del risentimento, che è uscito da, credo, un paio di mesi. Un mese e 20 giorni, quindi ci sono sbagliato, ho sbagliato di poco più di una settimana. Ecco, è uscito da un mese e 20 giorni per i tipi di Minimum Fax. Diversi di noi, anche persone presenti in sala, hanno seguito il farsi di questo libro nel corso degli anni, perché è un libro che ha una lunga storia, è un libro che è stato scritto coram populo, praticamente davanti ai nostri occhi, in rete, perché Leonardo è il news editor di Vice Italia e prima ancora si era appunto fatto notare con dei post di notevole pregio e acume sul suo blog che si chiama La Privata Repubblica. E, negli ultimi anni Leonardo si è calato a fondo appunto in questa Italia del risentimento, che è l'Italia del gentismo, è l'Italia dei nuovi populismi, è l'Italia dei complottismi, è l'Italia dei forconi, dei no euro, dei cittadini esasperati, tra virgolette, delle ronde di quartiere, dei meme contro i migranti, delle barricate contro i profughi. Si è fatto un punto d'onore venendo da, tra l'altro, da una zona nevralgica del paese da questo punto di vista, che è satura di questo tipo di umori, cioè il nord-est, perché Leonardo è veneto, si è fatto un punto d'onore di scandagliare quei fondali, di andare in loco, cioè di fare anche appunto un lavoro sul campo. Ha scritto reportage narrativi e anche articoli di, diciamo, debunking di diverse bufale propalate in questa galassia in giro per la rete. E dopodiché ha pensato bene di prendere tutto questo patrimonio di appunti, di osservazioni, di storie che aveva incontrato e metterle tutte insieme, provare a mettere tutto in fila. Cos'è successo in questo paese nell'ultima decina d'anni? In realtà l'arco è più lungo, la prima data che compare nel libro è 1992, però diciamo che il fenomeno che lui racconta è un fenomeno soprattutto degli ultimi 10 anni. Già il titolo del libro, La gente, è una sorta di controcanto a La casta, il libro di Stella e Rizzo, che è esattamente di 10 anni fa. E quello che racconta Leonardo è come, e questo ce lo metto io, la mia interpretazione, no? È come negli ultimi 10 anni una macchina che produce lotte diversive abbia funzionato in maniera sempre più intensa, allargando il proprio raggio d'azione fino a occupare quasi tutta la sfera d'azione del conflitto sociale. C'è un conflitto sociale che non viene più agito nei, insomma, suoi canali che potrebbero portare a dei risultati, quindi con lotte appunto nel mondo del lavoro sensate, con appunto lotte solidali, inclusive, lotte che fanno massa d'urto in una direzione ben precisa, lotta di classe, per non girarci troppo intorno, ma questo conflitto stagna in questa palude di falsi nemici, di capri espiatori, di false flag, di, insomma, di temi che allontanano, cioè anziché denunciare le politiche di austerity si denuncia il signoraggio bancario, c'è sempre un qualcosa di, anziché premere perché venga affrontata di petto e sensatamente, che è già tardi, la questione dello sconvolgimento climatico con gli effetti devastanti che sta già avendo sul pianeta, poiché questa tematica non è presa in carico in modo serio da nessuna forza politica, diventa un'ansia generalizzata che poi produce delle lotte sostitutive contro dei pericoli che in realtà non ci sono, come il complotto delle scie chimiche. No, ogni complottismo ha un fondo di verità. Noi dobbiamo partire da quello, non semplicemente ridicolizzare chi ci crede, ma far vedere, e questo emerge dalle storie di Leonardo, che ogni teoria del complotto, per quanto bislacca, parte da un fondo di verità che poi viene pervertito, ma viene pervertito perché quel fondo di verità non è preso in carica da nessuno, da nessuna forza politica, sociale, seria, oppure c'è che prova e non riesce a prendersene carico. E quindi le lotte ambientali diventano il complottismo sulle scie chimiche, le idiozie sul signoraggio bancario sono lotta al capitale finanziario deviata, aberrata. Quindi noi dobbiamo partire da questo. In realtà tutto il libro di Leonardo racconta questa sostituzione. In altri paesi dal 2011 in poi ci sono stati dei processi di soggettivazione antagonista, anche molto radicali, con movimenti di cui si è detto per anni che erano stati solo delle fiammate, non avevano portato a nulla. Questo spesso si è detto di Occupy Wall Street, di queste cose qua, sono state solo delle fiammate, non hanno portato a nulla, si diceva in Italia, contrapponendo invece chissà quali risultati che si sono ottenuti qua. In realtà sono movimenti che hanno continuato a lavorare, come il 15 de Mayo, gli Indignados spagnoli, o le lotte che c'erano state nel 2010 di massa contro il tentativo di riforma delle pensioni del governo francese. Sono lotte che hanno sedimentato, hanno continuato a lavorare in maniera carsica, sotterranea, hanno fatto lavoro di quartiere, hanno prodotto reticoli, eccetera, e poi adesso sono emersi. Uno può giudicare come vuole i risultati che hanno avuto per il momento, ma sono risultati. Noi possiamo pensare che la strada non è riappropriarsi del Partito Laburista come hanno fatto i movimenti che a un certo punto hanno spinto Corbyn alla guida. Possiamo non essere d'accordo con quel percorso, c'è qualcuno che dice no, lo strumento non è il Partito Laburista, che è, no, ok, la forma partito e quant'altro, però quello è una cosa che è successa perché ci sono state delle lotte e dei movimenti. Possiamo non essere convinti su Podemos, queste cose qua, però quello è un risultato di cose che ci sono state perché c'è stato il movimento degli Indignados. Possiamo pensare, non so, che i cortège de tête che ci sono in Francia, queste forme radicalissime, non siano un viatico costruttivo, ci sono critiche su questo, però quello è un movimento ultra radicale partito dalla lotta contro la loi travail, che però è un risultato di anni e anni di processi di soggettivazione che ci sono stati. Possiamo dire che Bernie Sanders, cioè il Partito Democratico americano, è uno strumento inutilizzabile, però è indubbio che la spinta dal basso di moltissimi anche che avevano fatto Occupy Wall Street, eccetera, eccetera, è stata determinante per portare lassù Sanders, ok? Quindi io non sto dicendo che tutto quello che succede ha il mio plauso, sto dicendo che altrove succede, altrove ci sono degli sbocchi che hanno un senso, dopo noi possiamo anche criticarli, dire che non sono stati, qua in Italia invece ci si è persi nella palude gentista. È questo che racconta Leonardo, senza dire questo che ho detto io. Leonardo ha un taglio spiccatamente giornalistico e da reportage, quindi il suo dovere era raccontare queste storie e ce le racconta. È prezioso questo libro come strumento perché mette tutto in fila, tutta una serie di episodi, di fenomeni che sono già dimenticati, ma che però hanno determinato delle svolte. Ad esempio, chi è Danilo Calvani? Nessuno sa chi è Danilo Calvani, ok? Nel 2013 i giornali hanno parlato di lui per settimane e settimane, il leader dei forconi, che andava ad arringare i forconi in Jaguar, poi si è scoperto che la Jaguar non era nemmeno sua ed era pure pignorata. Era un imprenditore che ha cercato di fare il salto e diventare un leader nazionale di un movimento, cose così. Però vedete, nessuno si ricorda più di Danilo Calvani. Se non fosse stato per Leonardo, che lo ha immortalato nel libro, cioè, e sono quei nomi che passano, no? Chi è Spider Truman? Chi è Spider Truman? Spider Truman era un tizio che non esisteva in realtà, era un personaggio immaginario di cui si è parlato per giorni e giorni, cos'era, nel 2011, perché lui diceva di essere un dipendente della Camera dei Deputati. Ex precario dopo che dopo 15 anni che dopo 15, esatto, uno che aveva lavorato come precario alla Camera dei Deputati per 15 anni, che poi a un certo punto era stato licenziato e aveva deciso di vendicarsi raccontando i segreti della casta. Era diventato un fenomeno gigantesco sui social, non se lo ricorda più nessuno. Questo è il valore prezioso, cioè, Leonardo si è seguito sta roba per anni e anni e poi ce l'ha messa tutto in fila e ci ha raccontato come questi ultimi 10 anni hanno trasformato il panorama, proprio la cultura, l'immaginario del paese, per dei passaggi che se noi li prendiamo uno per uno sono già stati dimenticati. E quindi il lavoro, cioè, fa memoria praticamente, lui fissa in un racconto unico tutta una serie di rivoli, di cose sfuggenti, di fenomeni, di fuochi di paglia, che però tanto fuochi di paglia non erano, cioè il loro manifestarsi era un fuoco di paglia, ma la tendenza profonda a cui corrispondevano non lo era, e continua, e siamo ancora dentro la palude gentista. Ecco, quindi dopo questo preludio in cui ho dato la mia interpretazione di questo libro, che si legge come un romanzo, è un cliché da dire, però è vero, nel senso che insomma è narrazione, le doti narrative di Leonardo sono indubbie, lascio la parola a lui, grazie. Hai già detto tutto. Come dire, devi raccontare. Ha già detto di essere rapido, ma non ci sono. Dunque, grazie a tutti e a tutte di essere qui, naturalmente, e ringrazio Vag e Sentuno per avermi invitato. E io partirei da Spider Truman proprio perché ci divertiamo subito. E nel luglio 2011 succede che siamo in un periodo della politica italiana che sembra molto remoto, ed è un periodo in cui è una specie di interregno tra la finanziaria e la letterina, la lettera, la famigerata lettera della BCE, che in pratica aveva portato alla caduta temporanea di Berlusconi. Uso temporanea perché è tornato d'attualità. E poi ci ritorniamo alla fine magari. Esce appunto, cioè questa finanziaria, siamo nel pieno periodo dell'isteria anticasta, cioè quel periodo che è nato, il mio libro parte a quella data d'inizio per circoscrivere il fenomeno, cioè quando si inizia a parlare di gentismo come variante del populismo, e poi magari spiego meglio con casi concreti cosa intendo. E però il periodo vero da cui parte tutto è l'uscita del libro di Stella Rizzo, La casta, e soprattutto dal concetto di casta, cioè dalla polarizzazione che si è avuta nella società, nella politica, nei media, soprattutto negli ultimi due, tra un noi sempre puro e incorrotto, cioè la gente, e un loro rapace, predatorio, che ci vuole sempre fregare. E tutto questo ha portato però a degli effetti morbosi, diciamo, collaterali, tra cui il principale che io individuo nel libro facendo anche un'operazione di quasi archeologia politica, quello di aver portato non solo, di aver fatto nascere e crescere il Movimento 5 Stelle, perché nel 2007 c'è anche il V-Day, il primo V-Day qua a Bologna, l'8 settembre 2007. E appunto, quindi, questo è uno degli effetti. Un altro effetto è che la politica, cioè la casta, quella identificata come casta, diventa anticasta a sua volta. La classe dirigente e politica e finanziaria di questo paese se la prende con la casta, teoricamente contro se stesso, ma in realtà, per come era stato congegnato quel discorso, non erano più loro, era un nemico immaginario, riempibile con qualunque significato. E tra l'altro, sempre all'epoca, siamo nel 2007, c'è Luca Cordero di Montezemolo, insomma, non è Lenin, ecco, esatto, che commissiona studi alla Confindustria, di cui era presidente, per poi utilizzare gli studi sui costi della politica, sugli sprechi della politica, sulle malversazioni, che ben inteso sono reali, però non è il problema principale di questo paese. Lo è diventato all'epoca, perché anche perché Montezemolo and Company avevano dispiegato tutta la loro potenza mediatica ed economica anche per inoculare questo concetto nella gente, nell'opinione pubblica. E fatto sta che appunto Montezemolo commissiona studi e inizia a tirare bordate incredibili contro i partiti, e questo si accompagnava, e questo non lo fa perché aveva a cuore la buona politica di questo paese, no, lo fa perché aveva in mente di scendere in campo lui stesso. Adesso ce lo dimentichiamo, grazie, io dico anche per fortuna, ma c'era questo specie di think tank che si chiamava Italia Futura, con cui Montezemolo voleva iniziare a entrare in politica e quindi sostituire i vituperati politici di professione con una nuova classe politica responsabile di tecnici. E questo nel 2007. Nel 2011, facciamo questo salto temporale, in mezzo ci sono tantissime altre cose, c'è l'Italia dei Valori, qualcuno se lo ricorda l'Italia dei Valori? Che è arrivato all'8% nel 2009 all'Europea, anche perché da un lato aveva rimodulato il suo messaggio giustizialista e anticasta, rimodulato, poi in realtà andava benissimo, e dall'altro perché aveva avuto il supporto del blog di Beppe Grillo. E dei Valori, molte altre cose. Nel 2011 Diego Della Valle, un altro eroe del popolo, compra pagine e pagine e pagine di quotidiani, dal Corriere alla Repubblica, al Sole, penso addirittura alla Gazzetta, compra queste pagine per pubblicare una specie di appello manifesto che si chiamava tipo, "Politici ora basta, avete rotto i coglioni", che è proprio un linguaggio, ovviamente falsamente vero, comunque un linguaggio molto spiccio, ecco, che non, teoricamente non, diciamo che non te lo aspetti da un imprenditore che ha una potenza economica incredibile. Quindi nel 2011 succede anche questo, quindi il clima generale è più o meno questo. Succede che nel luglio 2011, appunto, con la finanziaria, una finanziaria cosiddetta, descritta dai giornali, lacrime e sangue, di quella finanziaria si prendono il motore che spinge l'indignazione è il fatto che non venissero ancora tagliati i privilegi della casta, cioè che non erano state toccate le auto blu e altre cose. E quindi l'indignazione, che già era ai massimi livelli, schizza ancora di più. In questa temperie, in questo clima, appare una piccola pagina Facebook che si chiama I segreti della casta di Montecitorio, e in cui appunto questo autore, che si firma Spider Truman, si definisce un ex precario della casta che per 15 anni ha lavorato a contatto con la casta, che ha deciso di svuotare il sacco. E quindi inizia una narrazione anche molto accattivante di questo giustiziere mascherato, che all'epoca aveva come avatar la maschera di Guy Fawkes, presa dal film di Per Vendetta e ancora prima del graphic novel di Alan Moore, ovviamente con significati lontanissimi da quello che intendeva Moore, ma giusto un attimo. E insomma, c'è questo avatar di Guy Fawkes che incomincia a spiattellare, diciamo così, i segreti della casta, cioè tutte le, non so, i barbieri di Montecitorio che prendono 650.000 euro al mese per fare tre tagli, non era 650.000, però insomma era una cifra iperbolica, le schede telefoniche agevolate, eccetera, eccetera, eccetera, anche le macchine, le auto blu che portano insomma i politici in giro per le ville dei Parioli, tutta questa forma di gossip politico, e prende piede. Siamo agli albori di Facebook in Italia, siamo al 2011 e numeri di quel genere adesso aveva preso circa 100.000-200.000 fan nell'arco di 48 ore, pochissimo, adesso saremmo arrivati nell'ordine di 1 milione probabilmente. Sto sta che esplode, diventa virale. E sembra che sia... E lo prendono sul serio tutti quanti, addirittura Di Pietro, all'epoca, diceva, aveva preso pretesto Spider-Man per lanciare una manifestazione nazionale contro la casta. Insomma, era stato preso seriamente, tutti i giornali avevano dato credito e sembrava che fosse reale, questo ex precario fosse reale, fosse l'ennesimo tassello, anzi quello giusto anche per dare una bella spallata alla casta. Se non che a qualcuno non torna tanto questa storia, per un semplice motivo. Tutto quello che scriveva Spider Truman, quello che metteva sia sulla pagina che sul blog, erano notizie, fatti e circostanze già uscite su giornali, inchieste, in TV, dalle Iene in poi, insomma. Erano tutte cose note e stranote. Quindi non rivelava alcunché, anzi, diceva solo cose che erano già note, però, e qui sta il motivo del successo, lo faceva con un linguaggio nuovo, cioè con un linguaggio che rispondeva perfettamente alla grammatica social e quindi rispondeva a una... non faceva altro che fomentare un'indignazione ai massimi livelli utilizzando un linguaggio molto artificiosamente spicciolo, un po' come Della Valle, insomma. E questo ha comportato, e questa è... io inizio il libro da qua non a caso, perché poi si è venuto a sapere più o meno chi c'era dietro, e non erano persone di estrema destra, ma probabilmente era, adesso non si è mai saputo la, esatto, cioè, non si era mai saputa la, non si è mai saputa la vera identità, però diciamo che erano ambienti gravitanti intorno a ex rifondazione comunista, quindi Caruso ad esempio, Francesco Caruso, che era ex deputato anche, che aveva allestito il blog e la pagina sostanzialmente, poi è stato beccato perché aveva messo una mail dove non doveva essere, e Mascia del Popolo Viola e altri, insomma, questo era un tentativo, diciamo, di recuperare il messaggio anticasta declinandolo in una certa maniera. Chiaramente le premesse, per quale dico per me nel libro, come diceva Roberto, come diceva Buminguno, Non è che sto a fare grandissima analisi socio-politico-economica, ma è molto più un racconto. Invece qua dico che secondo me le premesse erano completamente folli e questa operazione era, non faceva altro che era l'ennesimo tassello di un'isteria collettiva che ci ha portato a dove siamo adesso sostanzialmente. E questo è il motivo per cui ho voluto iniziare il libro da questo episodio specifico, che è marginale, dopo tutto è piccolo, è stata una fiammata per 3 giorni, però le tendenze che spiegava erano molto più profonde, erano molto più radicate, tant'è che c'era un commento che cito nel libro, dopo che sostanzialmente Spider Truman o i segreti della casta come operazione era stata smascherata, un commento di un utente che fa, che sia una bufala o meno, poco importa, sta montando un'onda che in Occidente, in Italia, ma in Occidente, che insomma stravolgerà tutti più o meno. E effettivamente non aveva tutti i torti questo commentatore. Un'onda stava montando in Italia, era già iniziata a salire appunto al 2007. E però, appunto, con Spider Truth, anche con episodi piccoli di questo genere, è quasi come un percorso a tappe che diventano sempre più grosse o comunque sono fiammate che fanno, scoppiano e rilasciano i detriti a fondo della società. E questo lo uso per, insomma, dico così e mi ricollego a un'altra storia del libro che ha citato Buminguno, cioè quella del movimento 9 dicembre dei Forconi, che probabilmente ci ricordiamo un po', abbiamo delle immagini vaghe, magari di piazze, di rotatorie, con 3-4 manifestanti che danno volantini, e questa era una dimensione di quel fenomeno. Però ci sono altre immagini, tra cui appunto Calvani, Danilo Calvani, che era uno dei triumviri che reggeva il coordinamento 9 dicembre, che apre insomma i TG alla sera, e sembra incredibile pensarci adesso, però è successo. Calvani, e poi la cosa fantastica del coordinamento era che copriva da nord a sud, e tutto declinandolo in maniera locale anche, con esiti anche abbastanza, che c'è, tra il grottesco e l'inquietante, perché al nord il responsabile del coordinamento del 9 dicembre è Lucio Chiavegato, che in realtà è un indipendentista veneto. Gli indipendentisti veneti ce ne sono sempre nel libro, sono dappertutto. E, al centro appunto c'era Danilo Calvani, che ha fondato sostanzialmente questo coordinamento in una cella frigorifera, nella cella frigorifera della sua azienda agricola. E poi a sud c'è Mariano Ferro, che è il leader del movimento dei Forconi, che nel 2012 in Sicilia aveva bloccato letteralmente per 5 giorni l'isola, con delle modalità molto semplici alla fine, cioè un blocco generalizzato delle strade, e soprattutto attuato con il supporto dei sindacati degli autotrasportatori. Ecco, tutte quelle pratiche, queste mobilitazioni anche molto oscure, sotto traccia, a un certo punto spuntano fuori dal nulla. L'Italia il 9 dicembre 2013 si sveglia e si trova ad esempio a Torino, che è una delle piazze più partecipate, con migliaia di persone che si scontrano con la polizia. E nessuno riesce a capire perché, cosa sia successo. Ci sono appunto queste immagini di scontri anche sostenuti per ore, in cui la polizia non riesce, quasi non riesce a gestire quella piazza, ma il punto è cascano tutti dal pero sostanzialmente. I media in primis si chiedono: ma cosa sta succedendo? L'AMPI all'epoca a Torino ha detto: guardate che qua sta succedendo qualcosa di inaudito per questa città. E però non riusciamo bene a capire cosa. In realtà, come avevo detto poco prima, il movimento 9 dicembre in realtà ha funzionato anche per poco, però è stato un collettore di tutta una serie di istanze che stavano molto fuori dai circuiti tradizionali politici, mediatici, sindacali, e che non trovavano alcuno sbocco, alcuna risposta. Ed è stata trovata appunto in questo coordinamento sgangherato quanto si vuole, che però era riuscito, prima nell'incontro precedente si è parlato molto di senso comune, era riuscito diciamo a intercettare un certo senso comune che dal 2007 al 2013, ma poi anche oggi, si è un po' invalso in questo paese, quindi anticasta, no euro, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Che all'epoca non erano ancora state prese in carico dai partiti. Salvini ancora non era, o comunque era da poco, il segretario della Lega, per fare un esempio. Ed era anche un altro periodo politico fortemente contrassegnato da un caos istituzionale. C'era Enrico Letta, presidente del Consiglio. Dov'è Letta adesso? C'era Letta presidente del Consiglio, quindi c'era il paese versava in una sorta di caos istituzionale. La crisi ancora, insomma, la crisi stava colpendo durissimo, e c'erano tutta una serie appunto di istanze non evase dalla politica o ignorate. I media non si sono accorti di niente, ma in realtà, qua cito il caso di Torino perché è molto indicativo, nelle riunioni preparatorie, tutte svolte a cavallo tra i quartiere e Facebook, c'era un sacco di gente, era molto partecipata, aveva quasi assunto quell'appuntamento un aspetto messianico quasi, era visto come una sorta di appunto di riverginazione, di rinascita politica, di resa dei conti, anche la resa dei conti contro la casta finalmente, eccetera, eccetera, eccetera. E fatto sta che appunto, sempre per stare a Torino, la cosa che ha funzionato di questo movimento è anche il fatto di, diciamo, utilizzare una sorta di immaginario pop, tra cui appunto le maschere di Viper Vendetta, e anche di diciamo, far entrare nella realtà degli elementi di irrealtà. Mi spiego meglio. Due delle cose di cui magari adesso ci ricordiamo, è la prima è il famoso meme, famigerato meme, di comunque l'immagine di Pertini con il pugno alzato minaccioso e la frase: quando il governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato con mazze e pietre. Insomma, una frase pesante da dire per un presidente della Repubblica, anche se era combattivo, molto amato, però insomma pesante, no? E infatti non l'ha mai detta. È una frase apocrifa, naturalmente, e che però verosimile, cioè ci stava nel Pertini di internet, nel Pertini che si agitava e agiva nel sottobosco, ci stava, cioè, era una frase che poteva dire quel Pertini. Poi introduco questo elemento del Pertini immaginario parallelo, perché poi evidentemente parleremo di altri personaggi paralleli. E questo è uno, uso questa immagine perché effettivamente questa frase virale, si è incarnata, è scesa in piazza, c'erano dei manifestanti che nelle varie piazze italiane proprio esponevano il vessillo della frase di Pertini. E l'altra invece, un altro caso di scuola di questa perversione dell'immaginario, è la questione della polizia che si toglie i caschi. E a un certo punto a Torino, finiti gli scontri, i poliziotti si tolgono il casco perché erano finite le esigenze di ordine pubblico. Questa è la spiegazione della questura. Nel mondo non solo dei Forconi era diventata la prova provata che la polizia si era unita, aveva abbracciato la causa, quindi si era tolto i caschi e si era unita con i fratelli rivoluzionari. E che ovviamente non era così. C'era un altro video, ad esempio, riprendeva una scena svoltasi a Rho, perché è molto una protesta che aveva preso piede in alcune periferie, aveva preso molto piede fuori dai grandi centri urbani. In periferia aveva funzionato, però un sacco, nell'interland milanese un sacco di persone erano scese in piazza. E c'era questo video in cui i poliziotti erano davanti, come succede in tutte le manifestazioni, e senza il casco. E la descrizione del video è: i poliziotti si mettono alla guida del corteo e guidano la rivoluzione. A Rho. Punto dei bravi. Sì. Fatto sta che. E questi sono due casi. E adesso, finora magari ci ridiamo sopra. Si ride molto meno quando dei sindacati di polizia, non esplicitamente schierati a destra, dicono: guardate che i nostri colleghi hanno fatto bene, perché è il momento di buttare giusta casta. Oppure qualche anno prima un altro sindacato di polizia come il COISP, quella a destra, e aveva rilasciato un comunicato dopo che era uscita un'inchiesta, un articolo sull'Espresso che parlava del ristorante a 25 stelle della Camera in cui i deputati pagavano 7 euro per l'astice, e aveva rilasciato un comunicato in cui diceva: guardate, dovremmo lanciarvi lacrimogeni dentro il Parlamento perché avete rotto i coglioni, non possiamo più di questi privilegi neanche noi poliziotti. E capiamo che la cosa si inizia a farsi un po' più seria di meme su internet o insomma di cose o di cortei numericamente poco rilevanti, perché appunto è quasi come se sono casi fiammate, appunto snodi, che però in qualche modo sono una spia di dove sta andando il paese, di dove va una certa narrazione, anche di dove va una certa politica. Quindi da un video su internet di un fatto ripreso in piazza si arriva a determinare per qualche giorno, quello dei caschi di poliziotti, si arriva a determinare per qualche giorno l'indirizzo della stampa mainstream, e ci sono sindacati di polizia che appunto fanno dei comunicati quasi, insomma, con un sapore anche abbastanza, diciamo così, pure eversivo, e dall'altro lato abbiamo Beppe Grillo che dal suo blog, insomma, Beppe Grillo chi per lui, che dal suo blog incita i poliziotti a fare altrettanto, incita tutti i poliziotti d'Italia a fare altrettanto, cioè togliersi i caschi e unirsi alla rivoluzione. Poi naturalmente non è successo niente, alla fine la rivoluzione è finita in Piazza del Popolo, con il comizio conclusivo era affidato a un impiegato, che nella vita normale fa impiegato, però in quei giorni andava in giro per il presidio in Piazza dei Partigiani, tra l'altro gestito da Casa Pound, in mimetica, e parlava davanti alle telecamere dicendo che serviva un governo di transizione tappeggiato dai militari. E insomma questo è quello che ha finito la rivoluzione, parlando di scie chimiche e altro. E quindi quello è finito. Però, e qua nel libro ho anche fatto un parallelismo con Millennium People di Ballard, c'era una cosa talmente tanto fallimentare che si poteva ridefinire in un successo, paradossalmente, perché aveva creato un nuovo modello di protesta sociale, un nuovo modo di mobilitarsi, aveva creato dei linguaggi, delle pratiche, anche piccole e minoritarie, che però hanno scavato a fondo, l'utilizzo dei meme, il cortocircuito tra piazza, internet e media e così via, e l'utilizzo di strumenti molto fluidi e labili come questi coordinamenti che non si tengono in piedi e che però sono facilmente infiltrabili e permettono a movimenti più strutturati o partiti di inserirsi lì dentro e di portare avanti le loro istanze travisandosi e così via. E quindi alla fine sono da prendere sul serio tutte queste cose, è una cosa che secondo me vanno presi sul serio, quello che ho cercato di fare nel libro sostanzialmente. Ecco appunto, parto da dove è appena finito, questa forma estremamente fluida, estremamente affidata a flussi di comunicazione e a coordinamenti a distanza e appunto di soggetti non strutturati che appunto che non esistevano magari fino a pochi giorni prima e che poi si trovano insieme in un gruppo su Facebook e insieme organizzano delle cose, appunto questa forma molto fluida è facilmente poi dirottabile invece da soggetti ben più strutturati e nel libro ci sono pagine molto chiare su come queste forme vengono poi dirottate dai partiti organizzati dell'ultradestra. Forza Nuova, che è un partito verticistico e strutturatissimo, proprio di soldati, con un capo supremo che è Roberto Fiore, che ha anche un impero economico, e Forza Nuova noi vediamo la manifestazione politica, però come rivelato da numerose inchieste, a partire perfino da almeno 15 anni che si fa inchiesta su questo aspetto, è anche una rete di imprese. Ecco, un soggetto così strutturato come Forza Nuova dentro queste cose sguazza fin dal 2012 dei Forconi in Sicilia. Poi Casa Pound all'inizio non era un soggetto così strutturato, è nato come galassia controculturale di estrema destra, però oggi è un partito, ha avuto una trasformazione negli ultimi anni che l'ha portato ad abbassare la temperatura, diciamo, controculturale e a rimarcare un'anomalia rispetto ai percorsi storici della destra, e oggi è un partito con una leadership ben definita, con appunto una presenza televisiva di questa leadership ben definita, direi addirittura strutturale, praticamente hanno un canale televisivo loro che è la 7, e questa tensione di Casa Pound verso la forma partito è anche coincisa con un lavoro sistematico di infiltrazione e dirottamento di tutte le istanze. Ad esempio c'è il capitolo sulle periferie romane di cui racconta Leonardo, a partire dai moti di Tor Sapienza, in cui Casa Pound è sempre stata avvistata a tutti i presidi, a tutti i coordinamenti, a tutte le fiaccolate e anche agli assalti che ci sono stati a centri di accoglienza e così. Quindi dietro questa label, diciamo così, dietro questa etichetta del cittadino esasperato, molto spesso c'è il fascista, proprio organizzato, non solo esasperato, organizzato. Perché? Perché, appunto, come dicevo prima, c'è una forma di sostituzione del conflitto. Poi i fascisti servono a questo, sono sempre serviti a questo, sono sempre serviti a incanalare delle energie del malcontento e portarle in direzioni lontane da quelle che minacciano il sistema. Quindi, come ho scritto anche recentemente, blaterano di poteri forti, di mondialismo, di complotti planetari, e poi però chi attacca è il migrante, cioè la loro retorica attacca in alto, ma poi le loro spranghe colpiscono sempre sistematicamente in basso, colpiscono i deboli, gli emarginati, eccetera eccetera. Allora, adesso tu ci hai raccontato della nascita, diciamo così, delle pulsioni anticasta e di questo fenomeno, questa fiammata che però è stata una fiammata fondativa del movimento dei Forconi. Mi piacerebbe che tu raccontassi invece di questi, appunto, comitati di cittadini esasperati che in tutta Italia, però diciamo tutti concentri sul caso romano, perché è veramente molto molto significativo quello che è successo negli anni scorsi nelle periferie romane. Parto da una piccola manifestazione che c'è stata a giugno del 2014 in centro a Roma. Non c'erano più di 200-300 persone. In prima linea i manifestanti di Casa Pound, dietro dei comitati di quartiere di Roma Est, soprattutto, ma Roma Est intendo dire non il Pigneto, ma molto più in là, quindi Sette Camini, Torre Angela, Tor Sapienza, eccetera, eccetera. Cioè, alcuni quartieri sono anche molto oltre il Gra. E questa manifestazione è molto piccola, non c'era sostanzialmente nessuno, però la cosa interessante era la presenza di Borghezio, che a Roma, diciamo, non c'era capitato molto poco, anche perché aveva definito i romani con epiteti molto amorevoli, dicendo che se non volevano pagare il pedaggio sul Gra dovevano essere trapiantati di cervello, insomma, poi che Roma era peggio di Calcutta, quindi proprio un amore plateale nei confronti della città. Tutto sta che lì, a un certo punto, arriva Borghezio, fresco di rielezione al Parlamento europeo. È un'elezione strana, perché Borghezio era stato, non so se confinato o messo apposta, però non so se confinato o messo lì nella circoscrizione centro, quindi insomma nel Lazio, dove non è che un apostolo della Padania libera si aspetti di prendere chissà quanti voti. Eppure in quell'elezione, in quella tornata elettorale, è riuscito a farsi eleggere con oltre 5.000 preferenze. Il motivo è che quelle che lui chiamava le facce pulite di Casa Pound l'avevano votato e l'avevano mandato all'Europarlamento, e la, diciamo così, cambiale da pagare era farsi tutte le periferie che Borghezio probabilmente vorrebbe radere al suolo, ecco. E questa manifestazione, a un certo punto, Borghezio prende la parola, parla attraverso il megafono, dicendo cose anche molto forti, dicendo che era finito il tempo della pace, nei quartieri romani è finito il tempo della pace, bisognava prepararsi alla guerra, e che da lì a poco sarebbe scoppiata una guerra. Poi io ero lì, tra l'altro mi ricordo che a un certo punto un signore va da un responsabile di piazza di Casa Pound e fa: ma come, ma fammo parlare uno del Borzano, cioè, ma che vuole questo? Poi Borghezio è andato via comunque, però è tornato molte altre volte. E infatti per più di un anno, quasi come si sono scoppiati vari focolai in molte delle periferie romane, specialmente Roma Est, e tutte nascevano da sostanzialmente tre o quattro motivi. Il primo è la notizia di una qualche aggressione, vera o falsa che fosse, non importava. Il meccanismo è che notizia falsa o vera, o presuntamente vera o presuntamente falsa, siamo oltre la post-verità qua, e veniva subito irrimediabilmente addossata a migranti o stranieri, o se non se c'erano ignoti erano migranti ospitati in centri di accoglienza e così via. E da lì si partiva tutta la retorica attaccata del degrado, quindi questo quartiere ha un sacco di problemi portati anche che magari erano preesistenti, però tutti esclusivamente sono fatti ricadere sui migranti ospitati nei centri di accoglienza. E quindi a quel punto scatta la mobilitazione. Mobilitazione che viene fatta appunto tramite questi quartieri, questi comitati di quartiere molto manovrabili, molto infiltrati e però molto efficaci, sia nel far, diciamo, percolare delle idee evidentemente politiche, comunque della propaganda, sui media che non, che tendenzialmente non vanno mai a vedere chi ci sia dietro questi comitati, oppure non riescono a riconoscere certe facce. È proprio uno schema che viene ripetuto quasi alla perfezione. Siamo a trasmissione come Quinta Colonna dalla vostra parte, che fanno sempre parlare la gente incazzata. Molte volte questa gente incazzata che parla è qualche esponente di partiti più o meno di destra. Io mi ricordo una volta, scusa ti interrompo, a Quinta Colonna hanno intervistato un cittadino esasperato che aveva il mono baffetto alla Hitler, cioè, quindi era evidente, no? Cioè, non era un fan di Charlie Chaplin, no? Però c'era un cittadino esasperato. E quindi tramite la gran cassa che danno queste trasmissioni, ma soprattutto la stampa locale, perché è sempre dal locale che si parte e molto spesso si deve restare nel locale per capire bene cosa succede, si forma il panico intorno ai centri di accoglienza o comunque intorno a questi quartieri. E una parte, io nel libro tendo ad essere sempre molto, cioè non generalizzare mai, a riconoscere sempre le responsabilità e a come si forma e si sgonfia anche questo meccanismo. Una parte del quartiere, non mai tutta, anche parti anche esigue, però molto vocali, rumorose e visibili appunto, si scendono in piazza o compiono azioni o si fanno trascinare dietro dai fascisti di Casa Pound. A parte Tor Sapienza, che è l'anello più visibile della catena, ci sono stati molti altri. Prima, nelle volte precedenti, se n'era parlato anche che dal 2014 a oggi si è attivata questa linea di mobilitazione, non solo a Roma, e poi adesso ci arrivo. Comunque dal 2014 adesso una delle modalità di azione di Casa Pound è stata proprio rimodulare un certo discorso gentista / antidegrado per andare a colpire il vero obiettivo, cioè l'anello più debole della catena sociale, il migrante ospitato nel centro d'accoglienza. E questo meccanismo a un certo punto si è interrotto con Mafia Capitale, con l'esplosione di Mafia Capitale. Poi sui giornali era anche uscito di un presunto interesse, cioè del presunto coinvolgimento di Buzzi dietro i morti di Tor Sapienza, ma poi in realtà le indagini hanno stabilito che non c'era nessun coinvolgimento. Però quel meccanismo per un attimo c'era bloccato, comunque aveva perso piede. Però anche questa era un'illusione, perché è ripartito subito dopo. È successo anche una cosa molto interessante a un certo punto. A Casale San Nicola, che è un quartiere a nord di Roma, ma ambiente però, mentre alcuni quartieri, e qua vediamo anche come viene modulato il discorso, perché dove ci sono dei problemi sociali nel quartiere, in quartieri degradati, tra virgolette, o comunque periferici, si fa un certo tipo di discorso, mentre, e quindi un discorso antidegrado, eccetera, eccetera. Invece nei quartieri più ambienti, come a Casale San Nicola, molto oltre il Gra, il discorso che si fa è quello di voler preservare uno stile di vita incontaminato, inalterato. Infatti, comunque a un certo punto la prefettura, che all'epoca era guidata da Gabrielli, decide di mandare 20 o 30 richiedenti asilo in una scuola abbandonata da anni e anni. Tra l'altro, quando era stata chiusa questa scuola nessuno aveva mosso un dito. Comunque a un certo punto arrivano si forma un presidio spontaneo di abitanti che viene subito e immediatamente preso da Casa Pound, sostanzialmente. Però succede una cosa interessante a un certo punto, che si apre una forma di competizione tra le componenti dell'estrema destra romana, perché in quelle, sempre nel 2015, a un certo punto i militanti di Forza Nuova e altri riuniti sotto una sigla che non è, poi non è più apparsa, che si chiamava Nessuno tocchi il mio popolo, aprono davanti alla scuola quello che loro chiamano il primo campo profughi per italiani. E quindi anche lì sfruttando naturalmente un disagio, perché c'erano comunque famiglie in disagio, li hanno messi a fare lo spettacolo, sempre ovviamente a favore di telecamera. Poi all'epoca era la gabbia che spingeva molto sul versante campo profughi italiani. Si apre questa competizione, diciamo così, del antidegrado e antimigranti, e succede che a un certo punto arriva il momento della verità e ci sono degli scontri, perché quando il pullman arriva davanti alla scuola, si era formata una specie di catena attorno alla scuola comunque per bloccare l'accesso, e i militanti di Casa Pound hanno iniziato a scontrarsi con la polizia. E cosa succede dopo? Che il comitato di quartiere si sfalda completamente, perché vedono che alla fine quella direzione ti porta ad avere la celere sotto casa e alle manganellate, sostanzialmente. E quindi finisce così, con una non soluzione, anzi, a Casale San Nicola soprattutto c'è stata una strumentalizzazione incredibile, che è andata a documento soprattutto dei cittadini. Il comitato si è spaccato, perché a un certo punto hanno riconosciuto: scusate, ma dobbiamo farci menare per quattro fascisti? E quindi lì è andata così. E lo stesso è successo anche a Gorino, che è un altro capitolo del mio libro, tratta di Gorino, cioè delle barricate che ci sono state l'anno scorso, più o meno, ottobre 2016, in questo in contesto completamente diverso, in questo piccolo paesino del delta del Po, lontanissimo da tutto, una specie di True Detective girato più piavati. E succede che arriva anche qui, lo schema è più o meno quello, collaudato, declinato in maniera diversa a livello locale, però lo stesso. Arriva, cioè, la notizia, la requisizione dell'unico ostello bar, arrivano, si sparge la voce in paese, che insomma sono 600 abitanti pochi, che da lì a poco sarebbero arrivati 60-70 migranti uomini. Oddio, cosa facciamo? Facciamo le barricate. Una parte del paese, soprattutto spinto da alcuni presidenti di cooperative, che Corino vive sostanzialmente di pesca di vongole, quindi le comunità di pescatori sono, le cooperative di pescatori sono il cuore pulsante della comunità, decide di mettere dei bancali per strada, che è l'unica strada che collega Corino al resto del mondo, e fanno le barricate. Gli immigranti non arrivano alla fine. Quello che, anche qui, tutta l'operazione che ho fatto nel libro è anche quello di andare a rivedere le cose che avevo fatto, per vedere se mi erano sfuggiti dei dettagli, o per vedere un'angolatura diversa della storia. E un ruolo fondamentale in queste barricate le ha giocate un politico della Lega Nord locale, che si chiama Nicola Lodi, detto Naomo. E anche qui vedo che stai già sottolineando. Esatto. Solo per dare la cifra del personaggio, per chi non lo conoscesse, Naomo è il suo soprannome, e vi chiederete: vabbè, magari viene, non so, da qualche personaggio, non so, qualche guerriero, cose del... No, viene da uno sketch di Panariello, che era quello Naomo, quello che è stato prima anni 2000, quando Naomi Campbell faceva la pubblicità dei cellulari in Italia. E quindi questo dà un po' la cifra del personaggio. Questo Naomo è una figura che è a metà strada tra Matteo Salvini a livello di utilizzo dei social e il Gabibbo, ma non sto scherzando. Cioè, l'altro giorno, ad esempio, Naomo è andato, c'è una zona di Ferrara che si chiama, un quartiere che si chiama Gad, che ha qualche problema, però insomma non è Caracas, ecco. Ecco, sì. E l'altro ieri Nomo, ovviamente sempre a favore di diretta Facebook, perché lui vive di dirette Facebook e questo è molto bravo a usarle, insomma Nomo si lancia all'inseguimento di alcuni spacciatori, come li chiama lui, con un megafono e li fa scappare, che è una scena ridicola, però è spaventosa nella sua violenza simbolica. E questo è il suo in realtà questo è il suo modus operandi, ed è anche il modus operandi della Lega Salviniana, se vogliamo. Quindi anche qui, fissandosi da un personaggio locale, si arriva a capire in più in profondità dove sta andando la Lega o come si è strutturata la Lega Nord Salviniana. E questo modus operandi lui lo sintetizza in un'immagine che pubblica sempre su Facebook, in cui c'è lui che dà un calcio ad una silhouette e il claim è a calci in culo, il metodo Nomo, come lo chiama lui, è a prendere a calci in culo le persone, o i diversamente bianchi, come chiama lui gli stranieri. E però questo modus operandi ha attecchito, si è fatto senso comune nella provincia ferrarese e in una parte di Ferrara. Tant'è che alcuni abitanti di Gorino, quando hanno bisogno di una copertura politico-istituzionale e mediatica, chiamano Nomo. È la prima cosa che fanno, mandano un SMS dicendo: guarda, vieni qui perché abbiamo bisogno di un uomo con le palle, così dicevano loro. Nomo arriva, fa il suo solito show, fa 550 dirette Facebook anche dall'ostello, eccetera, eccetera. E poi se ne va qualche giorno dopo aver decretato che lo Stato ha fallito e la gente, come chiamo lui, ha vinto. E solo che un anno dopo, quando il giornalista della Stampa ritorna sui luoghi a un anno dalle barricate, alcuni abitanti dicono: come va, insomma, come vi sentite un anno dopo? Siamo passati un attimo per razzisti, però siamo brave persone, non volevamo passare per razzisti, ci ha fregato un uomo, ci hanno fregato altri. Che naturalmente è una cazzata, è una narrazione autoassolutoria, e che però al contempo ci permette di capire quello che dici tu, capire col racconto vivo di cronaca, cioè che sono sempre la creazione, una macchina che produce continuamente false soluzioni a falsi problemi e che però determina in realtà, la incide profondamente. E il punto è questo: se si astrae dalla cronaca, dal racconto giorno per giorno, e la si prende nella complessità della vicenda, ci si accorge che non è ovviamente così, né da un lato, quindi né dal lato dell'indignazione, della massima riprovazione che giustamente doveva esserci, né dall'altro soprattutto, cioè i goranti, così si chiamano gli abitanti di Gorino, non sono né degli eroi della resistenza né dei mostri. C'è stata un'azione politica, è successo un fatto politico forte, grosso, che partendo appunto da una cosa piccola, quindi da quasi come aver visto al microscopio come si crea anche una sorta di senso comune, quello che parliamo noi, quello di cui si parlava anche prima, e soprattutto come si creano alcune forme di mobilitazione che alla fine non portano a nulla, è una grande barriera di tempo per tutti. Io sono stato a Gorino un paio di mesi fa perché sono andato con la famiglia e con amici in gita sul delta del Po, abbiamo preso la barca a Gorino e senza che noi avessimo detto niente, cioè non è che avevamo scritto in faccia siamo dei compagni o cose del genere, dopo un po' che parlavamo d'altro, quello che guidava la barca e che ci raccontava della sacca di Gorino, tra l'altro molto preparato, molto bravo, a un certo punto ci fa: comunque quello che è successo l'anno scorso non l'abbiamo voluto noi, Nomo non l'abbiamo chiamato noi, è venuto lui, siamo stati strumentalizzati dalla Lega, noi qui siamo tutti di sinistra, mio nonno era un partigiano, cioè, ma non è che noi avevamo scritto in faccia che eravamo dei compagni, no? E non avevamo detto nulla, cioè parlavamo di uccelli, di cormorani, però questo qui subito è partito con questo discorso, perché evidentemente, non dico che fa parte del discorso della gente, cioè, però in qualche modo anche chi si occupa di accoglienza turistica e cose del genere, di trekking, di escursioni lì nelle valli, eccetera, sa che dovrà inserire a un certo punto questo disclaimer, perché l'immagine del paese è stata insozzata da quell'episodio. Ora, il punto sarebbe trovare il modo di fargliene rendere conto prima, non dopo, perché dopo che sono stati strumentalizzati, come a Casale San Nicola, come a Gorino, come in tanti altri posti, dopo che sono stati strumentalizzati se ne pentono. Allora, è perché non c'è nessuno che interviene prima per farglielo capire prima. Cioè, il primo che arriva è Naomi, il primo che chiama è Naomi. Il fatto che il primo che chiama è Naomi è il problema. È lì dove manca un altro intervento, un'altra forza, un altro discorso. E questa è la cosa. Tra l'altro, non gli abbiamo detto, però quando è arrivato Naomi non l'avete cacciato, cioè non sembra, anzi dai video è accolto come il liberatore del paese, no? Ecco, ora io prima che magari ci sono domande, interventi, volevo chiederti una cosa che mi incuriosisce molto, cioè ho letto un po' di recensioni chiaramente sul sito dell'editore e ho visto un po' di conversazioni social, però mi piacerebbe sapere cosa pensi della ricezione che sta avendo il tuo libro. Perché ormai sono passati quasi 2 mesi dall'uscita, è stato moltissimo recensito, ho visto, sono uscite tante recensioni e vorrei sapere insomma che tipo di discorso sta insomma provocando e che tipo di reazioni hai. Reazioni alle reazioni al libro, alle recensioni. Sì. Non solo alle recensioni, cioè che tipo di feedback stai avendo? Perché i tuoi pezzi hanno sempre generato anche molta ostilità sul paese. Sì, hai tutta una serie di sì, dalla parte, cioè se è dalla parte giusta l'ostilità va bene, cioè nel senso se hai un'ostilità che viene da una certa parte, certo, va esatto, bene esatto. Dunque allora io non ho ancora spiegato cos'è il gentismo, però una cosa che non volevo fare troppo perché mi sono rotto no, però è una, insomma, nell'introduzione faccio una ricostruzione del termine e di varie definizioni proposte dal fenomeno. Ti dico questo perché a livello più, la prima cosa che mi chiedono naturalmente nelle varie interviste o presentazioni è chi è la gente, cos'è il gentismo, che naturalmente era, in realtà il titolo non l'ho scelto io, però editorialmente era efficace, però allo stesso tempo mi ha posto nella condizione infame di dover spiegare chi è come dire chi è il popolo, una cosa del genere. E però, quindi una prima linea, diciamo, di recensione e di ricezione è spiegare cos'è questo fenomeno. Ovviamente non è una, essendo un giornalista, non un politologo o un accademico, mi sono rifatto a chi l'ha già circoscritto e definito questo fenomeno. Poi qualcuno mi ha anche detto che è una sottocategorizzazione inutile e ok, cioè per me no, comunque può anche generare queste, secondo me bisognava aprire il libro, inizialmente dovevo farlo sul populismo, però non ci stava, non rientrava tanto perché sono tutte forme di mobilitazione, forme politiche estremamente e paradossalmente orizzontali che non prevedono, come rifiutano anche la leadership, e quindi è quasi come se, ecco, se dovessi definire in 2 parole, gentilismo è una sorta di materiale grezzo da cui poi possono uscire populismi o altre cose, quindi è proprio il grado zero, la materia prima, ecco. E questo è una ricezione. L'altra, quella che non mi piace per niente e che però bisogna mettere in conto naturalmente, è che sia un libro contro, un libro tipo Leonardo Bianchi blasta la gente, questa roba qua, che non è così, perché naturalmente ho una mia idea, mie opinioni e filtro una realtà attraverso le mie lenti, però cerco sempre di andare tutto quello che faccio in tutto il libro, che ha di prendere seriamente queste cose. Ovviamente ci sono delle situazioni che sono talmente tanto grottesche e paradossali che è inutile anche non fare del sarcasmo, insomma. E però al sarcasmo segue sempre, secondo me, una riflessione su quello che è successo, una problematizzazione estrema fino alle estreme conseguenze. E quindi quella lettura non mi piace, però proprio per il fatto di averlo reso il più giornalistico possibile, ci sta. È una lettura che inevitabilmente, poi questo è il mio primo libro e mi sto accorgendo che una volta che è fuori non è più nelle tue mani, ecco. E quindi naturalmente c'è anche questa lettura. E dopo c'è un ultimo filone che è quello più, così dire, alto, che dice, ma tu non hai analizzato troppo a fondo, non hai offerto, quasi come non hai offerto soluzioni, e anzi hai avuto un atteggiamento quasi snobistico, perché comunque, insomma, è questa più o meno la cosa che mi si imputa. Però anche qui, questa è un'altra cosa che è proprio, è un equivoco di fondo, secondo me, anche nel ruolo che ha un giornalista in Italia, soprattutto. Perché alla fine ho fatto una cosa che nel giornalismo, adesso non voglio suonare come Stanis di Boris, però è una cosa che poco italiana, no, però l'equivoco di fondo è che il giornalista non solo debba raccontarti la realtà, ma ti debba offrire soluzioni, spiegare tutte le cause politico, sociali, economiche, cioè che sia un mostro ibrido tra il politologo, il sociologo, l'antropologo, quando invece io ho messo in fila dei fatti che magari erano sfuggiti a me in primis, già come dicevo prima, scrivendolo, mi sono accorto che un sacco di cose me ne ero dimenticate pur avendole vissute in prima persona, scritte in prima persona e analizzate. E quindi da questo equivoco, secondo me, del ruolo che deve avere un giornalista, nasce anche questa richiesta o questa critica, diciamo, di non spiegare troppo, di non offrire soluzioni, eccetera, eccetera. E poi l'ultima, anche che mi dà fastidio, è quella del piglio, presunto piglio snobistico, che non mi pare che sia, o di non aver analizzato troppo a fondo le ragioni di queste persone, quando in realtà tutto il libro è una continua citazione di quello che dicono, sono i protagonisti che parlano, tant'è che la cosa che ho fatto, io scrivo sempre in prima persona su Vice, e comunque ho sempre scritto in prima persona, in questo libro la prima persona non c'è, c'è la terza. E questa è stata una scelta stilistica, innanzitutto, perché non ci stava, perché non sono stato fisicamente in tutti i posti, e in secondo luogo mi pareva più adatto un racconto corale fatto attraverso la voce e le storie dei protagonisti, ecco. Io credo che snobismo non ce ne sia assolutamente, anzi, a un certo punto ogni tanto ci si sorprende anche per il rispetto. Cioè, è vero che c'è del sarcasmo in certi casi, ma in molti casi c'è del rispetto, perché comunque si percepisce un disagio di queste persone, stanno sbagliando gli strumenti, stanno sbagliando il bersaglio, stanno sbagliando tutto. Non mi riferisco ai Calvani, mi riferisco a quelli che vengono strumentalizzati, tirati dentro, e questa cosa c'è molto. Dopodiché, appunto, penso che sia totalmente fuori fuoco dire che tu non offri soluzioni, cioè ci mancherebbe altro che ti mettessi a concionare su una cosa che tra l'altro spesso, cioè, è completamente sfuggita, appunto, era fuori dai radar dei media mainstream. Tu hai avuto il merito prima di raccontarla volta per volta, poi di metterla tutta in fila, e non era assolutamente compito di questo libro offrire soluzioni o che altro. Secondo me è molto prezioso il fatto già di avere tutta la storia, di come è cresciuto il gentismo in questi 10 anni è molto utile, e poi ognuno di noi può aggiungerci un livello analitico quello che predilige è un tentativo di trovare soluzioni, eccetera, ma il libro è una cassetta degli attrezzi proprio perché ti fa vedere dei casi da manuale, c'è un paradigma che si ripete, c'è un paradigma che si ripete e tu impari a riconoscerlo leggendo il libro, anche nella diversità appunto delle specificità locali, delle forme transitorie che prende, dei soggetti in campo, però c'è una struttura che ogni volta si ripropone ed è questo che rende utile, è questo che rende utile il libro. Se ci sono domande, interventi. Ciao Leonardo. Faccio un paio di domande veloci. La prima è su Gorino Ferrarese. Mi chiedo, diciamo così, qualcosa sulla responsabilità della gente, perché quel periodo io l'ho vissuto attraverso la TV, attraverso, come hai detto tu, la gabbia della rete Vivo Paragone, che mandava i suoi inviati, che io ritengo essere buoni inviati, quelli lì da sette, in mezzo alla gente, però non sentivo quello che è stato riportato qui da un minimo. Cioè, ho sentito critiche, soltanto critiche rispetto a quello che stava succedendo. Non c'era uno in grado di leggere veramente la situazione, come abbiamo detto prima, da partigiano. Allora, era scelta editoriale o esiste una responsabilità della gente in questo? E la seconda è relativa a Spider Truman. Ti chiedo, è un po' più politica come domanda, se... siccome in quell'autunno il mio rivoluzionario fu, e so che è un paradosso, Giulio Tremonti, che in quell'autunno ebbe il coraggio di, in una conferenza programmatica, smentire Berlusconi con Berlusconi di fianco, oppure criticare Brunetta durante una conferenza riguardo alle riforme istituzionali che venivano fatte in quel periodo sulle pubbliche amministrazioni, e una settimana dopo presentarsi da Santoro dando una spiegazione secondo me davvero esaustiva su quello che stava succedendo in termini di crisi, ti chiedo se non senti la mancanza Tremonti? Non di Tremonti, no. Ma di una figura in grado attualmente di, come dire, di far saltare il banco a livello politico, cioè un nome sì, in grado di, diciamo così, di, con le sue parole, di rivoluzionare. In questo momento non abbiamo veramente, cioè, nessuno che abbia un nome, che abbia il polso da rigirare le cose. La responsabilità della gente nel caso di Gorino è palese, cioè, per il semplice fatto che sono scesi in piazza a fare quella cosa lì, rivendicandosela. Quella è una responsabilità chiara, ora però non è di tutto il paese, e questo è importante da dire, perché non sono tutti dei mostri naturalmente. I media ad esempio si sono focalizzati su alcune figure pittoresche, tipo la nonna apartheid, come veniva chiamata, quella che è andata sulla 7 a dire che insomma che era meglio, che lei ha vissuto in Sudafrica, quindi era il caso di fare una parte in Italia, se no arrivano i neri e ci fregano tutto, cioè poi tanto anche il quoziente intellettivo basso. E quello naturalmente un mostro che sbatti lì, però allo stesso tempo questa figura della nonna apartheid era rifiutata anche dalle stesse persone che avevano fatto le barricate. È lì che hanno capito. Esatto, perché quello che non era il caso. Poi, secondo me bisogna, naturalmente, e qua uso la figura di nonna apartheid per dire che è sbagliato anche andare sempre comunque alla ricerca del sensazionalismo da un lato e dall'altro. Cioè, quando succede un fatto come Gorino, stiamo sempre su Gorino, però anche il discorso vale anche per il Tiburtino Terzo, che è un caso più recente, o altri. C'è sempre, a livello televisivo, c'è sempre qualcuno, qualche trasmissione, che prende un personaggio pittoresco, un freak, diciamo, lo mostra e lo rende la parte per il tutto, che è sbagliatissimo, perché poi quel personaggio lì viene preso da determinati partiti, eccetera, è funzionare una certa narrazione mediatica e quindi a una certa politica. E però la realtà è molto più complicata, naturalmente. E è sbagliato dire che sono tutti razzisti, è giusto dire che alcuni sono razzisti, è giusto dire che alcuni sono stati tirati dentro, ed è ancora più giusto però andare ad individuare le responsabilità politiche di quello che succede, perché tutte queste forme di protesta non sarebbero tali se non ci fosse una forma di tutela politica. E io è su quello che mi scaglio nel libro, non tanto da chi si fa tirare dentro, perché prima, ad esempio, c'era stato un intervento dal pubblico di un ragazzo che parlava di una... che parlava di come si è riusciti ad evitare una cosa in a Casoria. Si è riuscito a evitare un agorino, perché se non erano tutti dei mostri là, ovviamente. E però chiaramente quando si innesta questo meccanismo che parlo nel libro è difficile non rimanerne travolti, e a farne le spese sono sempre e comunque i cittadini o comunque gli abitanti di quel quartiere o di quei posti, perché a Tor Sapienza, ad esempio, il centro d'accoglienza è stato svuotato, però il quartiere rimane sempre uno schifo, non è stato risolto nulla, e torniamo alla cosa dei falsi problemi, delle false risoluzioni a problemi reali, eccetera, eccetera, eccetera. Invece per la seconda, non lo so. Cioè, vuoi rispondere tu? Vai. Come la penso, no? No, cioè, il fatto che il tuo mito sia Tremonti, no, dovrebbe interrogare. Sono perversioni tue, non entriamo nelle stesse. No, però, ma allora, guarda, in realtà ne abbiamo un sacco di personaggi, mediatici soprattutto, che utilizzano proprio questo topos, questa retorica del far saltare il banco. Ti faccio un esempio, tipo un filosofo molto famoso che ha anche cercato di definire il gentismo come... Non mi ricordo neanche quello che ha detto, però era una cosa sempre molto limpida e chiara. Come... Vabbè, avete capito di che sto parlando probabilmente. La parola con la F. Insomma, Diego Fusaro no, è quello che fa saltare il banco in TV. Sì, non lo so, mi dispiace. Mastro supercazzo. Eh? Mastro supercazzo. Sono brutte parole da dire. Scusate. Fusaro è uno che fa saltare il banco, Paragone è uno che fa saltare il banco, ma non fa saltare niente in realtà, se non le palle. È un teatrino, cioè di... Naturalmente di persone singole che fanno saltare il banco non penso che ce ne sia bisogno, e credo che sia il caso di averne, perché l'ultimo, un altro che ha fatto saltare il banco è Beppe Grillo, e sappiamo quello che è successo poi. Anche Salvini fa saltare. Esatto. No. È un banco che è costruito per saltare, cioè esatto. Apparenza. No. Però dietro la richiesta di qualcuno che faccia saltare il banco, io intravedo qualcosa di più profondo, no? Nel senso, in Italia c'è un po' questa cosa che spesso si è detta, ma secondo me ad nauseam, manca un leader, ci vuole un nome. E però è una perversione italiana, cioè non dico che è tua, però cioè, a livello climatico, no? C'è una perversione italiana, cioè tu in realtà stavi parlando appunto del far saltare in banco, però diciamo che io intravedo uno schema dietro che è un'esigenza falsa, che è stata sentita come vera troppo a lungo, manca un nome, manca un leader, e poi appunto questa spasmodica ricerca del leader è pieno di leader, sono tutti leader, ma poi appunto la spasmodica ricerca di un leader ti fa prendere... cioè, a un certo punto è sembrato un leader rivoluzionario in groia, per dire, in questo paese, che adesso è con Giulietto Chierpa, perché poi ci sono queste cose qua. Cioè, però il problema non è un leader, il problema è il conflitto sociale, cioè il problema è un conflitto sociale agito in maniera sensata nei nodi strategici della società, dove ci sono delle lotte che aggrediscono davvero dei nodi strategici. Poi queste cose hanno effetti, come nella logistica, ad esempio, no? Quello di cui abbiamo bisogno noi è un vasto movimento sociale che la finisca con i diversivi. negli altri paesi che ho elencato prima, non parlo dell'Europa orientale, l'Europa orientale in questo momento è in preda alla psicosi fascista più impressionante, no? Ungheria, Polonia, no, ma nell'Europa occidentale invece ci sono stati dei processi molto interessanti che appunto, che magari i risultati transitori che stanno avendo non ci convincono fino in fondo. Per dire, a me, Podemos, il populismo alla Laclau di Podemos, la retorica di Podemos, questa centralità della questione della comunicazione, per cui basta comunicare in maniera più efficace il ciò che è fatto, eccetera, a me questa roba non convince. Però Podemos è una roba infinitamente più seria di quelle che abbiamo qua in Italia, quindi è come mai? Come mai? E però lì si è partiti forse dicendo serve Pablo Iglesias. No, Iglesias era uno sconosciuto totale, lì c'è una spinta dal basso che a un certo punto produce anche un nome che va su, ok? Corbyn è uno che fa politica da 40 anni e più ed è sempre stato ai margini sia della scena parlamentare, perché è sempre stato uno mobbizzato e ghettizzato all'interno del suo partito e del suo gruppo parlamentare, e da lui i giornalisti non andavano mai, era totalmente ignorato, si era in Parlamento da 30 anni, ma era totalmente ignorato. Qualcuno è forse partito dicendo qualche anno fa ci vuole Corbyn, no, non lo conosceva quasi nessuno, Corbyn è un effetto del processo di soggettivazione, c'era una spinta dal basso che a un certo punto ha prodotto, cioè chi si trovava in quel momento lì per essere spinto su da questo movimento c'era Corbyn. Idem per Sanders, Sanders era un pressoché sconosciuto, è uno che appunto siede al congresso da decenni, però era totalmente, era un indipendente tra l'altro. Ora, io ripeto, a me non sembra nessuna di queste la soluzione, la cosa, eccetera, eccetera. Io, cioè, volendo, com'è? Cioè, istintivamente sarei più vicino ai cortège de tête che ci sono a Parigi, no? Come mia forma, è roba così. Però, ripeto, in nessuno di questi posti si è partito dicendo serve un leader, serve un nome. Il leader e il nome sono degli effetti, sono quello che viene portato su dalla spinta, dal basso, dal processo, dal lavoro organizzativo, dal movimento. Invece qua in Italia molto spesso si dice serve un leader, cioè siamo mussoliniani nel profondo, serve un duce, abbiamo questa forma mentis, anche gli antifascisti, cioè abbiamo il culto del capo. Ce l'abbiamo avuto sempre anche a sinistra il culto del capo, anche la nuova sinistra degli anni 70, i gruppetti avevano, ognuno aveva il suo capo, capito? Soffri a lotta continua, capito? Cioè abbiamo sempre questa cosa del culto del capo che ci fa cominciare a costruire le case dal tetto. Le case vanno costruite dalle fondamenta, dopo puoi fare anche un tetto bellissimo in cui non piove dentro, ma non puoi partire dal tetto. Mi fermo qua. Sono altre domande per Roberto? No, se ci sono altre domande. No. Nessuna domanda, curiosità. Perché non abbiamo parlato del piano Calergi, esatto. Il piano Calergi. Cioè, perché c'è un capitolo nel libro molto bello sulle teorie del complotto, vai. No, prima si era citato l'aveva citato Guido Calderone il piano Calergi, e la storia del piano Calergi è molto interessante, non la storia del piano in sé, ma la storia della teoria del complotto piano Calergi, perché anche quando tratto delle teorie del complotto, come dicevi giustamente tu prima, c'è sempre un nucleo di verità, o comunque sono la spia di qualcosa di più ampio. Il piano Calergi che vediamo, che sentiamo comunque, questa teoria che dice, sostiene, che questo conte austro-giapponese, mi pare, ungherese-giapponese, che ha un nome fantoziano poi tra l'altro, conte von Nikolaus Codenebio Calergi, esatto, e nel 1920 avrebbe scritto un paio di libri che non si è letto nessuno, e che adesso spiegano, cioè che hanno posto le fondamenta per l'invasione in corso in questo paese, per ovviamente il fine ultimo, il genocidio dei popoli europei, cioè il genocidio dei bianchi. Ora, chiaramente qualsiasi persona minimo di buon senso capisce che è una cazzata questo. Però, però da dove viene fuori questa, questo piano Calergi che Diego Fusaro ripete in televisione alle, in prima serata, che è stato oggetto di servizi della, della gabbia, sempre a firma di Francesco Borgonovo, che è un ex giornalista di Libero e adesso giornalista della Verità. Ha scritto anche su Camilla, cioè detto, sì. Ha scritto su Camilla, fa. Comunque, ecco. Non volevo... Comunque, insomma, lui firmava, non so se probabilmente l'avete visto, se, se avete anche voi questa perversione di guardare la gabbia, che poi adesso purtroppo non c'è più. Comunque c'era questo segmento che si chiamava Nessuno, e c'era questa, questo uomo mascherato, che qua torniamo sempre alla maschera un po' rivoluzionaria, che dice le cose che nessuno vi dice. Una serata era una puntata, diciamo, un tema di questa rubrica era il piano Calergi, che diceva che addirittura uno degli emissari del piano Calergi sarebbe Laura Boldrini, addirittura, cioè una delle, proprio una, un'esecutrice fedele del piano. E diceva, ovviamente il video era infarcito di cazzate sesquipedali, però era in prima serata, cioè milioni di telespettatori hanno visto in diretta e dopo hanno sentito che esiste appunto un piano fatto da un conte che vuole portare allo sterminio dei popoli europei, che Laura Boldrini sta sterminando i popoli europei e che le elite finanziarie, massoniche, eccetera, che sono ben radicate a Bruxelles, hanno proprio come principale ideologia questo piano Calergi. Ora, chi non è attrezzato a capire di cosa si parla è messo di fronte a una narrativa molto accattivante, perché c'è, ci sono almeno due o tre nemici, c'è il conte massonico di inizio Novecento, quindi un po' oscuro, ci sono i negri, c'è Laura Boldrini ovviamente, e quindi è proprio la teoria perfetta. Il punto è che da dove nasce questa cosa? Ha una storia molto interessante e molto marginale, perché nasce come libro di un neonazista austriaco, Gerd Honzig, strano che siamo finiti lì, di che da latitante nel 2005, latitante perché è stato condannato molte, pluricondannato per negazionismo, e quindi latitante in Spagna, a Barcellona, decide per passare il tempo, decide di fare questo libro che si chiama Dios Europa, il Plan Calergi, che è uscito per una casa editrice nazista naturalmente, e che penso si siano letti in 5 persone nel 2005. E però inizia a essere immesso nel circuito di estrema destra questa fantasticheria, questo piano, questa teoria che funziona, perché naturalmente c'ha tutti questi elementi, e che però per molti anni rimane confinata nei circuiti di estrema destra. Ad esempio in Italia un sito, l'unico sito che ne aveva parlato prima del 2010 era italiasociale.net o qualcosa del genere, che aveva come sottotitolo il periodico del nazionalsocialismo, quindi proprio anche questo molto letto. E fino al 2010-2011 in Italia di questo piano Calergi non nessuno sa cosa sia. A poco però scava nel profondo, si insinua negli anfratti, si insinua nei sottoboschi, inizia a determinare anche una, un senso, un distorto senso comune in certi ambienti, finché il tema delle migrazioni, il tema migratorio, esplode nel 2013 dopo la strage di Lampedusa, e quello che all'epoca era stata una facciata anche di solidarietà viene, diciamo, sommersa subito da tutte le schifezze con cui abbiamo, diciamo, i conti tuttora, e tra queste schifezze c'è il piano Calergi. Mi sono andato a vedere il grafico su Google Trend, lo storico. Piano Calergi c'ha un picco nel 2013 e un picco nel 2015, quando c'è la crisi dei migranti in Europa, insomma, nei Balcani. perché appunto inizia una cosa che era già stata iniettata, inoculata, inizia a, insomma, ad attecchire, perché spiega quello che sta succedendo, lo spiega in maniera semplice e chiara. Non è una spiegazione, però, naturalmente, è un fantasma, è un complotto, appunto, che non spiega nulla. Però è interessante vedere il percorso che ha portato un libro del 2005 di un neonazista austriaco in prima serata nella televisione italiana. Ed è anche analizzando queste cose che ci si rende conto del clima in cui siamo e, appunto, di quanto sia anche difficile poi smontare la potenza di queste narrazioni, perché nascono appunto su pregiudizi ben radicati e, diciamo, che muovono le leve giuste e fanno leva sulla paura soprattutto e su anche la necessità, però paradossalmente, di una la spiegazione di una realtà complessa che ti sfugge di mano e non riesci mai a capire fino in fondo. Se non ci sono altre domande, altri interventi, chiudiamo qua. Adesso c'è la cena e l'autofinanziamento, il libro di Leonardo è sul libretto e sul banchetto. Una domanda, osservazione: dicevi, nel caso in cui una persona che non ha gli strumenti adeguati può cadere facilmente nel credere, nel complottismo, in varietà. Secondo me però in realtà non basta, perché mi è capitato più volte di trovare delle persone che letto, persone intelligenti, vedi a scattare un qualche cosa, diciamo, un blocco dell'intelletto di fronte a certi contenuti. E secondo me è interessante, perché trasformare in totem certi elementi che gli fanno sospendere anche il ragionamento. Mi viene in mente un caso banale, che però è stato proprio eclatante nel mio cerchietto di amici. Un bel giorno un mio amico gira un meme, non so se lo ricordate, Ritanna Chienge. È girato questo meme con il volto di Rihanna, la cantante. Sì, ho detto, questa è Ritanna Chienge, sorella della ministra Chienge, e sapete che lei prende, non so, 20 milioni al mese per... Era una stupidaggine in mano. Ma la cosa impressionante è che la persona che l'ha girata è uno che pochi giorni prima non faceva parlarmi di Rihanna di quando gli piacesse. Ma è stato veramente impressionante, proprio conoscendolo, ho proprio osservato, lui vedendo quel Chienge, ha visto questa cosa e subito ci ha creduto. Quando gliel'ho fatto notare, è caduto da... Sì, perché secondo me è interessante osservare proprio questo spegnimento della logica, dice Natale. Basta, è un'osservazione. L'algoritmo di Facebook premia tutti. No, sì, hai ragione, cioè non è solo le persone non attrezzate, ma, cioè, io dico non attrezzate a riconoscere, no, non stupide, ma non attrezzate a riconoscere il trucchetto che c'è dietro. Esatto. Però anche quelli che sono, poi ci sono ovviamente il caso, l'altro caso, l'altro campo è quelle persone che sono estremamente attrezzate e che però questa cosa qua gli conferma il loro pregiudizio politico, cognitivo, eccetera, eccetera. E quindi è complicato, ecco, non è facile. Ha detto che è una questione anche di algoritmo, di logica di fondo, per esempio di Facebook, perché immagino questa cosa sia successa su Facebook, immagino, quasi sempre. Vabbè, comunque 9 volte su 10, 9 volte su 10, WhatsApp, ok, che appartiene a Facebook, e quindi, ok. Però, perché ci sono degli algoritmi proprio che premiano una risposta immediata, non meditata, chiaramente, una condivisione, una traduzione in quantitativo degli stimoli e dei messaggi, per cui devi avere più like, devi avere più cose del genere. Questa cosa viene incentivata e premiata dall'algoritmo, e questa cosa fa sì che gli scambi siano sempre più rapidi, chiaramente, sempre le condivisioni sempre meno meditate. Cioè, ci sono svariate ricerche, ad esempio, che dicono che la stragrande maggioranza delle persone che condividono un articolo non l'hanno letto, loro stessi che lo stanno condividendo, hanno letto solo il titolo. Come ad esempio quando, non so, io faccio ad esempio, tutte e due scriviamo anche per Internazionale, quando un nostro reportage su Internazionale finisce nella finestrella di anteprima della pagina Facebook di Internazionale, puoi star sicuro che sotto ci sono centinaia di commenti. Che siano inviperiti o che siano entusiasti, 9 persone su 10 sono straconvinto che hanno letto solo la frase di apertura che c'è nella finestrella di anteprima, nel preview. Ecco. Perché? Perché è proprio l'algoritmo che ti spinge, ti spinge a comportarti in un certo modo, sta ridefinendo un'antropologia della comunicazione. Facebook, ecco, e non è solo Facebook ovviamente, cioè, però ad esempio Twitter c'ha un sacco di difetti, però ha un funzionamento diverso, cioè a seconda del social, ecco, però queste cose, tutto quello che lui racconta nel libro ha tra le cause anche algoritmi, secondo me, perché sono confermativi di quello che tu già pensi, cioè non ti spingono a cercare un'altra versione o cosa del genere, oltre al fatto che appunto c'è anche l'effetto camera ecoica, no? Echo chamber, no? Per come funziona, per cerchie, per amicizie, eccetera, sei spinto a frequentare solo persone che in qualche modo la pensano come te, quindi il loro feedback alle tue cose conferma il tuo bias, eccetera, eccetera. Io sono molto convinto di questo. Sì. No, sì, non sono convinto al 100% che gli algoritmi ti rinchiudano in una camera dell'eco, ma però c'è dibattito su questo, c'è dibattito scientifico, esatto. Poi in realtà, secondo me, i social network nel mio caso, insomma nel libro, sono il fluidificante di alcune tendenze che sono già in corso da tempo e che permettono di esplodere anche, però non sono il motore, non sono la causa. Il motore no, sono sì. Ulteriore, amplificano, intensificano, radicano. Comunque sì, okay. Direi se non c'è altro, invitiamo a comprare il libro, perché merita, perché ci voleva questo libro. Grazie.